Così Mark ed io avevamo molti amici, vivi nella nostra epoca e morti nel passato, compagni di bellezza, intimi, nella gioia e nel dolore, perpetui abitanti di quella casa fatta di carne e di spirito che noi chiamiamo io. Il Dio è buono ed io, semplice donna, ero fortunata poiché Mark mi era amico e la sua dolce amicizia mi aveva liberata dall'ombra del terrore che era in me, fino a farmi dimenticare la paura, fino a farmi godere quei momenti di incanto sensuale in cui trascendevamo noi stessi, trovando la nostra immortalità, anche se sapevamo di dover morire. E quella sera che avevamo dedicato alla nostra amica Luna, ci sentivamo tutti presi da una deliziosa euforia, ancor prima che il vino Maotai incominciasse il suo giro intorno al tavolo e, ritenendoci più spiritosi del solito, pronunciavamo parole e sognavamo fantasie che normalmente sarebbero rimaste mute. Immediatamente compresi che Ernest Watts e Mark parlavano lo stesso linguaggio, le loro menti correvano rapide e gioconde al pari di cavalli ben accoppiati, mentre John Tam li stava ad ascoltare attentamente, in duplice adorazione. «Come parla bene!» mi disse, ascoltando Ernest Watts, e con quanta abilità, simile a un esperto mercante che mostri le sue giade, egli sa esporre i gioielli dei suoi aneddoti, rigirando le parole con la sua voce bassa e tranquilla che assomiglia tanto a quella di Mark. E John Tam, innamorato come me della bellezza, ma incapace di esprimerla, mi batté sulla spalla come un fratello. «State ingrassando, figliola mia», osservò accentando la seconda sillaba delle parole come tutti i cinesi malesi. «Dovreste giocare un po' a tennis per mantenere la linea». E poi, a voce più bassa, soggiunse: «Avete fatto bene ad invitarli insieme, se la stanno godendo un mondo. Non ho la minima idea di che cosa stiano parlando, ma un giorno o l'altro leggerò tutti quei libri perché mi sento ardere di sacro fuoco quando li ascolto». «Sì», gli sussurrai, aggregando definitivamente Ernest Watts allo splendido mondo prismatico che circondava Mark, a quella trappola di bellezza tanto grande che egli non ne avrebbe mai sentito la morsa. John Tam e i pesci dorati, Ernest Watts e la sua preziosa conversazione, la squisita fragilità di Maya Wong, il vino Maotai e la luna, tutta la bellezza della terra per Mark. E per rendere la serata perfetta, chi scoprimmo seduto al tavolo accanto e vedemmo avanzare verso di noi, con entrambe le braccia tese in avanti, il grosso corpo scosso da un susseguirsi di risate profonde, se non il cordiale direttore portoghese del nostro albergo di Macao? Si prese una seggiola e si sistemò, senza alcuna esitazione, alla sinistra di Mark, guardandolo raggiante da dietro gli occhiali lucenti, evidentemente soddisfatto di sé, come se tutto fosse opera sua. La luna, il barcone, il ristorante, il nostro stesso incontro, e subito prese a parlare della paura. La paura è una strana cosa. Guardate me, grande e grosso, 90 chili nudo. Mi piace divertirmi e la mia sola paura è quella di finire all'inferno, ma quello è nelle mani di Dio. Non ho nemmeno paura dei rossi, anche se hanno preso Canton e l'intera Cina è ormai in mano loro. Tuttavia, una volta ho conosciuto anch'io il terrore. Esattamente 7 anni fa. Durante l'ultima guerra ero coi volontari a Hong Kong. I giapponesi mi avevano mandato a lavorare nelle miniere di carbone di Hokkaido. Ci rimasi 4 anni. Mangiavamo come loro, polpette di riso con un po' di sale, pesce e verdura. Erano tipi robusti quei giapponesi. Con una sola mano sollevavano la trivellatrice e la gettavano sopra la spalla. Eppure non avevo paura. Molti miei compagni soffrivano di nervi e si facevano male di proposito per essere esonerati dal lavoro. Due o tre si trivellarono persino il piede per non dover più lavorare sottoterra. Mi sembra ancora di vedere i loro piedi spiaccicati come cavolfiori rossi con le ossa a pezzettini bianchi. Beh, un giorno la trivellatrice mi cadde su un piede per sbaglio. La sollevai immediatamente e non sentii alcun dolore, ma la sera, mentre mi toglievo la scarpa per fare la doccia, mi accorsi di avere un buco sul dorso del piede e quando sedetti a mangiare per terra con le gambe incrociate, vidi che il buco mi attraversava il piede da parte a parte. Era un buchino nero, senza nemmeno sangue. Svenni immediatamente e dopo di allora la trivellatrice mi terrorizzò a tal punto che non fui più in grado di lavorare in miniera. Ancora oggi mi sento battere il cuore a solo pensarci. E il portoghese portò la mano al petto guardando Mark con occhi imploranti. Era un po' brillo. Ma anch'io ho spesso paura, disse Mark con la sua voce più dolce. In aereo devo sempre bere un pochino prima di decidermi a salirvi e purtroppo devo salirvi spesso. John Tam lo guardò con ammirazione. Ditemi, Mark, chiese, vi hanno forse abbattuto durante la guerra? Mark parve evidentemente a disagio. Sì, ho avuto un incidente, rispose infine. La paura è davvero una strana cosa, mi disse Maya in cinese. Si incomincia con l'avere paura di cose ben definite, dei pipistrelli, degli ubriachi, dell'oscurità, della lebbra, delle frustate. Poi diventa un'abitudine e si va da una paura all'altra vivendo soltanto negli intervalli. Io non ho più paura, si interpose Eileen Cheng con un sorriso radioso, parlando ella pure in cinese perché gli altri non potessero capire. Non temo i comunisti che mi hanno liberato dall'infelicità. Mio marito era ricco e vecchio e sono stata costretta a sposarlo. La mia famiglia non mi permetteva di divorziare per timore dello scandalo. Ho sopportato 5 anni di terrore. Avevo paura di ogni cosa, persino di trovarmi con le amiche e di aprire una lettera. Quando qualcuno mi sorrideva, pensavo che stesse tramando per farmi del male. Non riuscivo a fare nulla perché analizzavo sempre i motivi che mi spingevano ad agire e le intenzioni altrui. Poi, col comunismo, ho potuto divorziare. Un semplice annuncio sul giornale è stato sufficiente. E ora sono di nuovo studentessa e andrò in America a studiare letteratura inglese. Ah, non ho più paura. La paura è il nostro stato naturale, diceva intanto Watts a Mark. Purtroppo per l'uomo il tempo delle grandi pestilenze è finito. Nel giornale del mattino legge di terremoti ed inondazioni e all'ora di pranzo ha già dimenticato che sono morte migliaia di persone. Egli ha perduto la sua memoria collettiva della fame. E sebbene individualmente possa anche morire di fame, non è più spinto allo stato cannibalistico dalla carestia asiatica. Gli uomini delle città tengono accese le luci in continuazione per negare la loro paura del buio e non possono udire i tuoni perché vengono soffocati dal rumore del traffico. Poiché i cataclismi della natura non appartengono più all'uomo, egli deve creare i propri disastri, quale sfogo alle sue paure. Quando al contadino cinese nasce un figlio, dissi, parlando per Mark ma rivolgendomi al dottor Go, egli lo veste in abiti da femmina e gli dà un nome femminile, poiché teme che gli dèi invidiosi possano portarglielo via. Quando il raccolto del suo campo è abbondante, egli scende nel fosso e scuotendo il capo grida forte: riso cattivo, molto cattivo, allo scopo di propiziarsi gli dèi ed ingannarli. In certo qual senso questa mentalità è simile alla mia, poiché anch'io temo i poteri soprannaturali e non oso credere alla mia felicità. Il dottor Go annuì. Succede la stessa cosa a Hong Kong, a gran parte delle persone malate di mente, oriunde della terraferma, disse amabilmente. Non dobbiamo dimenticare che soltanto il 6% dei cinesi dell'isola afferma di essere nato a Hong Kong. Gli altri hanno una mentalità contadina. Il loro modo di pensare non si basa su nozioni astratte. Causa ed effetto non hanno alcuna relazione e la loro credenza in un controllo esterno e in un'influenza soprannaturale si manifesta in maniera tanto simile alla schizofrenia che spesso è estremamente difficile fare una diagnosi. Tra i giovani colti che chiameremo occidentalizzati, disse padre Lo, troviamo spesso una personalità contrastante e squilibrata che risulta molto sconcertante. A un certo momento questa gioventù asiatica istruita parla e si comporta in maniera che ci sembra del tutto ragionevole e un momento dopo passa a un modo di pensare, di ragionare, così diametralmente opposto che si stenta a credere che si tratti dello stesso individuo. Sì, ammise il dottor Go, nei tempi difficili si ritorna spesso alle antiche tradizioni. Ho conosciuto un vecchio che, avendo perduto tutto il suo denaro, prese ad agire in una maniera che il figlio giudicò incomprensibile. Il giovane era stato educato nelle moderne scuole cinesi e non conosceva più gli antichi riti. Portò il padre al manicomio credendolo impazzito. François che aveva ormai assorbito una discreta quantità di vino, si fece loquace. Non soltanto gli individui, ma anche le nazioni tornano ai modelli primitivi sotto lo stimolo della paura. E chi dobbiamo ringraziare per il costante grado di intensità di questo fascino fatale, se non la vostra stimata professione, mon cher? Disse rivolgendosi a Mark. Paura, l'autre volupté, la piacevole angoscia delle masse masochiste, spinge oggi l'uno contro l'altro due sistemi economici. Con quanta sottigliezza il giornalismo sa titillare l'eccitazione quasi sessuale del loro allarme reciproco. Con quanta abilità sa scegliere il titolo di prima pagina più atto a provocare la colica dello spavento, la diarrea del panico, e quanto innegabilmente esatta è la sua conoscenza del gusto morboso delle moltitudini, di quella passione che, per le forti emozioni che deve venire soddisfatta collettivamente, poiché le nostre usanze occidentali impediscono che trovi uno sfogo nella violenza privata. Assaporiamo tutti la morte a buon mercato, nei nostri film e nei nostri romanzi gialli, e a volte mi sembra che ci stiamo volontariamente portando a un tale grado di frenetica aspettativa che non saremo soddisfatti finché il terrore non ci avrà tutti sopraffatti col suo fecale odore di immensa cloaca. Gli scampi erano sauté, l'aragosta deliziosa in salsa piccante con zucchero bruciato e peperone rosso, i gamberi in umido con pollo e funghi, e non trovo parole per descrivere l'eccellenza culinaria degli altri cibi. Dopo il mio squisito vino Maotai, bevemmo vino giallo e caldo. I bambini erano felici, scorazzavano per il barcone e i clienti agli altri tavoli apparivano lieti di vederseli intorno e li facevano sedere per chiacchierare con loro. Deve essere bello essere un bambino cinese, osservò padre Lo. Vi tenete accanto ai vostri bambini il più possibile e forse è per questo che sono tanto spontanei e non soffrono di complessi. Non cercate di fare di loro una razza a parte, proteggendoli assurdamente dalla vita e così, uscendo dalla nursery per affrontare il mondo reale, essi non hanno alcuna lotta da sostenere. Noi facciamo dei nostri figli degli spostati. Voi invece ne fate uomini e donne per un mondo adulto. Essi non si interessano dei discorsi degli adulti e del loro modo di comportarsi perché non nascondete loro quasi nulla e non credono che i grandi ne sappiano più di loro. Erano quasi le 10, l'ora più propizia per la luna, ma essa era ancora nascosta dalle nuvole e dal tetto del barcone vicino. Sazi e soddisfatti, attendevamo senza impazienza, parlando di Lipo, di Shen Fu e di altri amanti della luna. Peccato, davvero, che la purezza e la costanza della loro passione non sia stata dedicata a qualcosa di più alto, osservò padre Lo. Non sono affatto d'accordo con voi, ribatté François, poiché non c'è felicità maggiore di quella di morire stringendo l'amata fra le braccia. Lipo morì stringendosi al petto la bella luna, e così vorrei morire io nell'illusione di un meraviglioso amore. E poiché anche padre Lo aveva un'anima di poeta e non poteva fare il moralista a lungo, ci trovammo ben presto a citare versi cinesi in lode al vino e alla luna. Frattanto, il groviglio di nubi che copriva la luna cominciava a preoccupare i pescatori di Aberdeen. Guardai Mark che sorrideva sognante, battendosi la coscia col suo ventaglio nero. Tale era la mia passione per lui che cercavo nella notte un segno favorevole al nostro amore e volevo che anche la luna ci desse la sua approvazione facendo la sua comparsa all'ora giusta. Come i pescatori, anch'io mi sentivo turbata poiché ora un altro pericolo stava minacciando la luna, una nuvola simile a un drago con le zampe distese. Improvvisamente si levarono esplosioni da tutte le giunche. Erano i pescatori che cercavano di spaventare i diavoli dell'aria e le nuvole per liberare la luna. Dopo aver sparato tutti i loro petardi, i pescatori presero a battere rumorosamente sui gong e dalle donne si levò un forte lamento di derisione contro la nuvola diabolica. I riti magici sorvolarono l'acqua e parvero scagliarsi verso il cielo. Il mare increspava le sue lucide scaglie, punteggiate e rigate dai riflessi delle lanterne e delle luci al neon. Anche François e John Tam condividevano l'ansia dei pescatori. Mi presero entrambi per mano e corremmo a prua e io volsi la schiena a Mark, rifiutandomi di conoscerlo, affinché gli dei invidiosi non si accorgessero che egli era ben più prezioso di loro e se ne andassero altrove a sfogare la loro ira, dimenticandolo. Feci questo pienamente convinta, poiché in quel momento io ero veramente una contadina cinese che credeva negli dei e nei diavoli, nei sortilegi e nei sacrifici, decisa a tutto pur di allontanare la minaccia che incombeva su Mark. François urlava in francese il suo incoraggiamento ai pescatori. John Tam traduceva in dialetto Hokkien e ben presto fummo raggiunti da gruppi provenienti da altri tavoli. I pescatori si eccitarono maggiormente vedendo tanti ricchi che partecipavano ai loro riti, spararono grossi mortaretti e picchiarono sempre più forte sui loro gong, mentre il lamento delle donne si faceva più possente. E ad un tratto lanciammo tutti un grido di gioia perché la luna era uscita dalle nuvole, col suo viso superbo e crudele, solitaria, felina e lucente. La luna d'autunno lasciava cadere su di noi i suoi liquidi raggi, incantandoci per sempre con la sua bellezza. I pescatori gridavano, le donne ridevano e i bambini battevano le mani mentre la nuvola sconfitta allentava i suoi ultimi tentacoli, inseguita da un ultimo ironico crepitare di mortaretti. Ordinammo tutti un altro boccale di vino caldo per brindare alla luna. Non ridere, se io, vecchio, porto fiori, l'arpa dalle sei corde suona, la coppa gira. Nella vita dell'uomo, dove può esserci un momento migliore di quello di fronte a una coppa colma di vino? Perché saggi e dotti sono ormai muti da secoli e i loro nomi dimenticati, ma i bevitori lasciano un eco risonante dietro di sé. Finalmente Mark ed io potevamo guardarci. Il suo corpo era voltato impercettibilmente verso di me. I nostri sguardi si cercavano attraverso la tavola, sentivamo in noi il lento palpito della nostra confusione. «Spero che gli abitanti della Luna celebrino la festa della Terra», disse il dottor Go, «e che brindino in suo onore con qualcosa di simile al Mao Tai che abbiamo bevuto stasera. Spero che scrutando la Terra essi vedano la magica striscia di seta rossa che lega il piede di un bimbo e di una bimba predestinati a sposarsi», disse Maya. E padre Lo parlò del canto del dolore infinito, il poema che celebra l'amore fra l'imperatore Tang e la bellissima Yang Weifei. Weifei era così bella che si poteva parlare di lei soltanto con metafore di notti primaverili e di palazzi fatati. Si diceva che tutti gli abitanti di alcune città avessero lasciato le loro case per avere una fugace visione della sua bellezza, che corrieri avessero ucciso i loro destrieri per galoppare a portarle fiori dal lontano Yunnan. E tutta questa bellezza era stata ripudiata allo scoppio della ribellione. I soldati dell'imperatore avevano rifiutato di muoversi finché Weifei non fosse morta, e così ella era stata uccisa sulla collina di Mawei di fronte agli eserciti e ai loro cavalli. L'imperatore non aveva potuto salvarla, ma in seguito aveva ritrovato le sue sopracciglia nella curva di una foglia e il suo volto nello splendore dei petali, poiché ella era la bellezza incarnata. Aileen Cheng amava questo poema perché considerava l'amore fra uomo e donna superiore ad ogni altra emozione. Era per lei una passione raffinata e poetica. Andrò in America a studiare. Leggerò molto e troverò la mia anima, dichiarò. Io non potei fare a meno di sorridere. Intrecciando le dita nei capelli, nuvola nera incantata intorno al viso, siedi, deridendo l'ozio, carica di mille dubbi paralizzanti che ostacolano il passo al tuo cuore. Oh meraviglia, andrai a scrutare amori sepolti e inimicizie, mentre i passeri importunano gli alberi verdi, e dirai saggia bimba, triste del nuovo frutto di conoscenze, non ho radici. Quando i pertinaci vermi diventeranno tondi e grassi, nutrendosi della morbida carne che era tanto dolce accarezzare, sorriderai con un sospiro, per poi ingolfarti oltre in qualche grave e pesante volume che dice troppo. Così pensavo. La conoscevo molto meglio di quanto ella stessa non si conoscesse. Ritornammo con lo stesso sampan, poiché le donne attendevano sempre per riportare a riva i loro clienti. La bambina mangiava i resti dei nostri piatti, che i cuochi mettevano sempre da parte per i barcaioli. Approdando, ci trovammo faccia a faccia con la realtà nelle vesti dei Palmer Jones, i quali avevano onorato della loro presenza un gruppo di amici riuniti a un altro dei ristoranti galleggianti e che stavano ora aspettando il loro autista con la macchina. Adeline non perse tempo a separare le pecore dalle capre, ignorando completamente Ernest Watts, John Tam, Maya e me, e concentrando la sua affabilità su Mark e François. «I rossi sono a Canton, Mr. Elliot», annunciò. «Tuttavia ho sentito dire che vi è stata una grande vittoria nazionalista». Mark la guardò con occhi sbarrati, come era solito fare con coloro che lo stupivano oltre ogni dire, e naturalmente si dimenticò di rispondere. Fu François a venirgli in aiuto. «Ah, toujours la même histoire», disse. «Quando abbandonano una città annunciano sempre una vittoria. Almeno cambiassero un po' sistema», soggiunse lamentosamente. «Stanno diventando monotoni». «Oh!» esclamò Adeline con un brivido di piacevole eccitazione che le tragedie, a sicura distanza, non mancavano mai di procurarle. «È davvero spaventoso! Povera, povera Cina!» «Naturalmente non dobbiamo perdere la testa», soggiunse in tono più normale e pratico. «Ne vous en faites pas, madame», la rassicurò François. «Mister Palmer Jones continuerà come sempre, j'en suis certain». «Inglesi sono davvero meravigliosi», disse in seguito Watts. «Non insistono mai nel sostenere che 2 più 2 fanno 4, perché nella vita normale 2 più 2 possono fare tutti i numeri che si vuole, purché lo si voglia, decisamente. Il s'eleva la logique de l'absurde, e spesso hanno ragione». Mark ed io andammo a sederci sulla nostra pietra, sotto la luna. Eravamo un po' tristi ora che l'eccitazione della festa era caduta. Eravamo tristi perché già ci vedevamo a vicenda in ogni cosa ed eravamo troppo vicini al centro di noi stessi per essere felici. Abbiamo mangiato e bevuto, abbiamo onorato la luna e conversato con gli amici, abbiamo visto giocare i bambini ed ora ci ameremo. Non è questo vivere ed essere felici?» disse Mark. «E Dio è molto buono con noi». Guardammo la luna e ne fummo nuovamente abbagliati.